Focus Economia. Sette minuti, buon pomeriggio gentili ascoltatori, una nuova puntata di Focus Economia. Avete sentito nel corso anche dei giornali radio, oggi l'ABI ha annunciato la sospensione delle rate del mutuo per le famiglie dei terremotati d'Abruzzo, però è polemica sulla questione della possibilità di devolvere il 5 per 1000 che normalmente va già alle associazioni di volontariato, un'iniziativa del ministro Tremonti, di devolverla anche in questo caso ai terremotati. Cercheremo di capire perché c'è questa polemica. C'è una certa attesa anche per il discorso, e magari riusciremo anche a sentirne qualche passaggio, del presidente americano Barack Obama, che parlerà naturalmente della situazione economica, anche degli interventi che potrebbero essere molto impopolari nel settore dell'auto, e la cosa ci riguarda da vicino perché, come sappiamo, la Fiat sta per stringere operativamente un accordo con uno dei tre giganti, Chrysler, uno dei tre grandi produttori americani. Obama, tra l'altro, qualche stralcio del suo discorso è già uscito, ma ha parlato dopo che già il governatore, il presidente della Federal Reserve, Bernanke, ha dato qualche timido segnale positivo per quanto riguarda la congiuntura economica, e anche di questo parleremo nel corso del programma. E poi cercheremo di capire anche come il governo italiano sta per muoversi nel campo della sanità, perché alle porte c'è l'elaborazione definitiva del patto per la salute 2010-2012 e ci sono novità in vista per le sanità regionali. Per quanto riguarda infine la borsa, oggi dopo 4 giorni di pausa la borsa è tornata, è positiva, in tutta Europa gli indici sono positivi, ne parleremo più avanti anche a Piazza Affari. Oggi in grande spolvero c'è il titolo Mondadori, ci sono i titoli del settore bancario. Wall Street però per ora è negativa. Queste invece le altre notizie economico-finanziarie della giornata. Il petrolio è tornato sopra i $50 al barile per quanto riguarda la collocazione a New York, e sempre per quanto riguarda lo scenario macroeconomico, per dire della gravità anche della situazione, anche economie piccole ma significative come quella di Singapore, il calo del prodotto interno lordo dell'economia di Singapore è stato del 19,7%, un crollo record, e questi dati si riferiscono ai primi 3 mesi dell'anno rispetto al trimestre dell'anno scorso. Era il 2008, c'era già qualche avvisaglia, ma naturalmente l'economia andava a gonfie vele, invece adesso il calo è, pensate, di quasi il 20%. E per quanto riguarda invece l'Europa, da segnalare c'è il nuovo minimo storico dell'Euribor, il tasso, come sapete, che le banche applicano tra di loro per i prestiti trimestrali. Siamo all'1,42%, ma è anche la base sulla quale si calcolano le rate dei mutui, e quindi sono buone notizie, come accade da alcune settimane, mesi ormai a questa parte, per quanto riguarda l'Euribor. E sempre per quanto riguarda invece l'Europa, da registrare le dichiarazioni di un membro del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, Thanasios Orfanides, che dice il rischio di deflazione è aumentato, cioè il contrario dell'inflazione, i prezzi che calano, è aumentato negli ultimi mesi. Dunque la Banca Centrale Europea, questa è la logica deduzione che gli osservatori ne fanno, potrebbe tornare a tagliare nei prossimi mesi il tasso di interesse. Poi, come detto, l'economia americana. Alle 17.30 parlerà il presidente, presidente americano Barack Obama, e ci sono già alcuni stralci del suo intervento. Segni di ripresa, dice Obama, i segni di ripresa economica sono benvenuti e sono incoraggianti. Questo però non vuol dire che i tempi duri siano passati. Questa è una parte del discorso di Obama, che ha parlato anche di possibili misure per quanto riguarda il settore dell'auto. Il presidente americano ha parlato subito dopo che in mattinata era intervenuto il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, che credo sia la seconda volta consecutiva nel giro di qualche giorno è tornato a cercare di rassicurare un po' gli operatori e i mercati. Ha detto ci sono segni di rallentamento della contrazione economica. Naturalmente bisogna intendersi, non si dice che c'è una ripresa dell'economia, ma che c'è una diminuzione del rallentamento dell'economia. Queste sono dichiarazioni che il presidente della Federal Reserve ha rilasciato al Wall Street Journal, e anche di questo parleremo più avanti, cercheremo di approfondire. Ieri sera invece, sempre sul fronte americano, sono usciti i dati di Goldman Sachs. Goldman Sachs, come sappiamo, anche lei è finita, come tutte le grandi banche, gli istituti, i gruppi bancari, le banche d'affari americane, nel ciclone della crisi, ha archiviato il primo trimestre del 2009 con utili per 1,8 miliardi di dollari, decisamente al di sopra delle attese degli analisti, che scommettevano invece per un valore di 1,6 di 1,6 dollari per azione. Invece il livello raggiunto è di 3,39 dollari per azione, e queste naturalmente sono notizie positive. Invece dall'Australia arriva la notizia che la compagnia aerea australiana Qantas ha annunciato un taglio dell'80% delle stime sugli utili, la soppressione, pensate, di 1750 posti di lavoro e anche il rinvio dell'ordine per 16 nuovi apparecchi. C'erano anche 4 Airbus nell'elenco dei nuovi apparecchi ordinati, ma questo ordine è stato rinviato. Dunque il valore dell'operazione da diversi miliardi di dollari è stato rinviato a causa, scrive la compagnia aerea australiana, del deterioramento rapido e significativo dello stato del mercato nel corso delle ultime settimane. E non c'era certo bisogno che ce lo ricordasse la compagnia aerea australiana Qantas che il mercato si sta deteriorando, ma insomma anche questi sono segnali dell'andamento macroeconomico a livello internazionale. E invece veniamo all'Italia. Oggi non ci sono moltissime notizie sul fronte economico per quanto riguarda il nostro paese, ma abbiamo detto della sospensione delle rate dei mutui annunciata dall'ABI, e c'è anche uno studio oggi per quanto riguarda l'economia italiana, uno studio a livello europeo sui prepensionamenti, che sono molti in Italia, il 34% rispetto a una media europea leggermente più bassa. È un tema questo che preoccupa molto anche i sindacati, quello dei possibili licenziamenti. Ecco allora che è arrivata oggi una proposta del segretario della UIL Luigi Angeletti. È fondamentale in Italia conservare e mantenere l'apparato produttivo, ha detto Angeletti, quindi bisogna evitare i licenziamenti. E fin qua, insomma, potremmo dirlo tutti, potremmo sostenerla tutti un'affermazione del genere. Bisogna vedere poi se le aziende riescono a evitare i licenziamenti. Però la proposta qual è di Angeletti? È quella di una sorta di moratoria con dei bonus per le aziende. Sentiamolo allora, Angeletti al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. La prima e più importante è quella di realizzare una moratoria dei licenziamenti, stabilire che per almeno 12 mesi non si realizzino licenziamenti né riduzioni di personale attraverso il non rinnovo dei contratti a termine. Questa proposta verrebbe compensata per le imprese da un vantaggio, da una specie di bonus previdenziale, cioè le imprese che si impegnano a rinnovare i contratti a termine e a non licenziare nessuno avrebbero una riduzione significativa dei contributi previdenziali, che è un peso significativo nel costo del lavoro per le nostre imprese. E per quanto riguarda gli ammortizzatori, noi pensiamo che bisogna rendere molto più flessibile e duratura la cassa integrazione ordinaria, cioè quella forma di cassa integrazione che non prevede la individuazione di esuberi e quindi praticamente un licenziamento, quindi la recessione del rapporto di lavoro. Questo è il segretario della UIL Luigi Angeletti, che ha anche commentato oggi l'appuntamento di domani che riguarda la firma definitiva del nuovo modello contrattuale. Al tavolo ci sarà anche la CGIL, ma come sappiamo non firmerà il sindacato di Guglielmo Epifani, che non condivide questo accordo. Angeletti ha detto: non possiamo fermare il mondo per la CGIL, da domani avremo un nuovo modello contrattuale che avrà il vantaggio anche di aumentare i salari. Ancora due notizie che riguardano l'Italia. Nonostante la crisi, il 2008 delle armi Made in Italy si è chiuso in fortissima crescita. L'anno scorso, infatti, il volume d'affari è cresciuto del 222%, cioè più che raddoppiato rispetto all'anno precedente, con le transazioni bancarie registrate che sono schizzate da 1 miliardo e 300 milioni di euro a 4 miliardi e 300 milioni di euro. La fonte di questa notizia è la Presidenza del Consiglio, che nel suo ultimo rapporto sulle esportazioni, importazioni e transito dei materiali d'armamento sottolinea tutti questi dati e anche come il maggior acquirente di armi italiani sia la Turchia, che ha acquistato ben il 35% delle armi italiane vendute nel mondo. E poi c'è anche una notizia che riguarda le compagnie telefoniche. Ci sono molte le campagne pubblicitarie che ci propongono nuove offerte, nuove tariffe. Le compagnie, parliamo della telefonia mobile, che ci propongono nuove tariffe, nuove offerte e via dicendo. Arrivano però anche le multe dell'antitrust, perché a volte queste offerte non vengono fornite con le doverose informazioni. E allora arriva la multa da 735.000 euro per Telecom. E riguarda scorrettezze nei piani offerti da per esempio Alice 7 Mega, oppure per quanto riguarda questo telefono fisso, per quanto riguarda la telefonia mobile, la promozione tariffaria TIM Sogno oppure Chiara di TIM, e sono altrettante operazioni non regolari secondo l'antitrust. La multa è arrivata anche a Infostrada Wind, che dovrà versare invece 165.000 euro per il mancato rimborso del canone Telecom che è stato fatto pagare ai clienti, anche se la società comunicava che sarebbe cessato il pagamento nel momento in cui, come sappiamo, si sottoscrive il contratto con la nuova compagnia, in questo caso Infostrada. Adesso 17:19 minuti, iniziamo con il primo approfondimento di giornata dedicato all'economia americana. Dunque, come detto, tra pochi minuti dovrebbe parlare il presidente americano Barack Obama. Prima di lui ha parlato il presidente della Federal Reserve Ben Bernanke, che ha detto: ci sono segni di rallentamento della contrazione economica. Torniamo a dire, non parliamo di una ripresa, ma di un rallentamento della contrazione. Mario Platero, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Direi le osservazioni di Bernanke, così, sempre prudentemente ottimistiche, giungono in una giornata in cui dall'economia abbiamo avuto un segnale, come dire, non troppo incoraggiante, perché abbiamo avuto un dato di caduta delle vendite al dettaglio, una diminuzione dell'1,1% rispetto a un aumento che si attendevano gli economisti dello 0,3%, quindi visto che l'economia, la crescita poggiano sui consumi, quando esce un dato così non certamente positivo, un po' di preoccupazioni sorgono. Tra l'altro, Mario, scusami se ti interrompo, ma proprio mi leggo a quello che stavi dicendo tu. Ho letto anche della ripresa dei buoni pasto, cioè il 10% degli americani, ora non so esattamente quale sia la fonte sui giornali di oggi, il 10% degli americani mangia grazie attraverso i buoni pasto offerti dal governo americano. Quindi anche questo è un indice molto negativo, molto, molto pesante, che si aggiunge, sì, naturalmente. Sono i cosiddetti food stamps, sono un ammortizzatore sociale che esiste da sempre in America, per cui c'è una percentuale fissa di americani che sono al di sotto della soglia di povertà che hanno diritto di poter avere questo aiuto e quindi questi buoni pasto che gli consentono di comprare derrate alimentari con lo sconto. Una delle voci che andò ad aumentare proprio quando ci fu il pacchetto di stimolo fu proprio quella di così sostenere, aumentare la possibilità di erogare nuovi più buoni pasto nel momento in cui ci fosse stato bisogno. Ecco, quindi è uno spicchio, come dicevi te, di un quadro che resta comunque così preoccupante e transitorio. Ma Bernanke ha parlato anche di inflazione, dicendo che la Banca Centrale Americana in questo momento continuerà lungo la sua linea, quindi tassi di interesse molto bassi, ma ovviamente a fronte di un rischio ritorno inflazione sempre presente sarà poi a sua volta pronta a intervenire per stringere, per rispondere anche a questa sfida, però è un discorso che di nuovo porta molto più in là e dunque ancora non ha avuto un impatto sul mercato. Sono in grado però di darvi delle anticipazioni sul discorso del Presidente Obama, che parlerà fra poco. La Casa Bianca mi ha mandato, come fa in genere con i giornalisti che sono iscritti al White House Press Corp, il discorso. È un discorso piuttosto lungo, molto interessante, strutturato su due posizioni. La prima a breve: Obama dice abbiamo fatto molto per cercare di frenare questa crisi, di ristabilizzare l'economia, quindi l'emergenza, per evitare che dalla recessione si passasse alla depressione, e ha elencato tutti i vari strumenti che sono stati messi in movimento, quelli per aiutare le banche, il TARP, il TALF, l'aiuto alle case automobilistiche, il pacchetto di stimoli e poi per ultimo questo pacchetto per i titoli tossici, quindi per incoraggiare i privati a intervenire sul mercato con l'aiuto dello Stato. Ma poi Obama, in questo discorso che io appunto ho già letto e mi sembra così un discorso piuttosto ispirato, parla anche del medio lungo termine. A un certo punto, verso la metà del discorso, ricorda la parabola del sermone sulla montagna, dove ci sono questi due uomini: il primo che costruisce una casa così sulla sabbia e quindi una casa piuttosto fragile che poi scompare alla prima inondazione, e l'altro che invece costruisce una casa su una roccia e quindi molto più solida. Obama usa questa parabola, questa analogia per dire: noi oggi ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo anche pensare alla costruzione di questa economia. Avverte che la crisi in questo 2009 comunque sarà difficile, non è che si esce dalle secche solo perché la borsa sta rimbalzando, perché le cose continuano a funzionare. Siamo andati avanti con 600.000 disoccupati al mese, quindi è possibile che nei prossimi mesi continueremo ad avere altri disoccupati. Tutto questo avrà ripercussioni sull'economia più avanti, però, dice Obama, ecco, noi sul breve abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sul lungo, dice, ci vorrà tempo, non riusciremo a farlo in un anno, non in due anni. Dobbiamo avere un messaggio di lungo termine, un progetto di lungo termine per costruire appunto, ed è questa poi la chiusura del suo discorso, questa casa, grande casa americana su una solida roccia ed evitare che si ripropongano dei rischi come quelli che poi abbiamo avuto. Quindi c'è un forte messaggio politico: Obama guarda lontano, vuole fare dei cambiamenti profondi nell'economia, nella gestione dell'economia e nel ruolo dello Stato dell'economia, e quindi in questo discorso che pronuncerà fra poco appunto affronta le due tematiche, ma ripeto, secondo me da questo messaggio politico anche di lungo termine l'America nel nuovo secolo ha imboccato una nuova strada e il ventunesimo secolo per l'America comincia oggi, non è cominciato nell'anno 2000. Ed è quello che ci chiediamo un po' tutti, perché insomma la presidenza Obama è iniziata sotto i peggiori auspici economici, ma i migliori auspici proprio per quanto riguarda la possibilità che la politica economica americana possa dare una svolta in questa crisi. Tra l'altro ci avviciniamo al bilancio dei fatidici 100 giorni, siamo quasi a quota 90, vedremo cosa dirà Obama. La sensazione è che il giudizio complessivamente, insomma, passerà la prova dei mercati, degli operatori. Oggi l'apertura di Wall Street non è stata positiva. Ora non dico che la campanella di Wall Street debba necessariamente, anzi non è sicuramente così, mettere l'ultima parola, però insomma, già il discorso di Obama era stato anticipato. Tra l'altro lui ha parlato anche di possibili interventi impopolari nel settore dell'auto. Di questo parliamo tra un attimo. Il tuo giudizio su questa fase, parlavi di un Obama che guarda lontano, non sarà un modo per dire: ragazzi, la strada è ancora lunga? Certamente, proprio lo dice, direi, non lo fa neanche capire, lo dice proprio in modo esplicito. C'è un passaggio in cui dice appunto: non stiamo parlando di un anno o due, stiamo parlando di molti anni, quindi è la strada di medio termine, la strada su cui poggia così la direttrice centrale che riguarderà la sua amministrazione, i primi 4 anni e poi la speranza di un rinnovo del mandato, e quindi qui sta gettando le fondamenta non soltanto per costruire la casa americana su una solida roccia, ma per costruire anche la legacy, il legame, la tradizione, l'eredità di quello che sarà poi la presidenza Obama nel contesto della storia economica del paese. Mario, la domanda poi è sempre quella: che fine faranno General Motors, Chrysler? Vabbè, Ford va un po' meglio. Sappiamo che su General Motors e Chrysler ci sono dossier aperti. Per quanto riguarda, per esempio, General Motors, si parla, insomma, già da un po', tra l'altro scadono anche i termini per tutti quanti i piani, della possibilità di uno spezzatino e di una soluzione, verrebbe a dire, un po' all'Italia, cioè una good company con quel poco che resta e un'altra che va verso il fallimento. Cosa attende nelle prossime ore General Motors? Ma dunque, poi l'impostazione dell'amministrazione è stata enunciata appunto tra ieri e oggi, è un'impostazione molto chiara che secondo me punta a stringere nell'angolo gli interlocutori che per ora impediscono di trovare una soluzione, cioè i creditori e i creditori, quindi coloro che sono gli obbligazionisti, diciamo così, che rischiano di vedere sfumare nel nulla le loro obbligazioni e che temono di perdere gran quantità di quattrini davanti alle richieste di sconti fortissimi dell'azienda del governo americano, e sono i sindacati che debbono fare concessioni importanti non tanto su licenziamenti, riduzioni, ristrutturazioni, riorganizzazioni, quanto su due voci importantissime per loro, e cioè l'assistenza sanitaria e l'assistenza pensionistica, che era garantita dall'azienda in base a contratti firmati negli anni 70, e quindi oggi la General Motors si trova a far fronte alle spese mediche di milioni di persone quando ha soltanto un 120-130 mila dipendenti. Quindi è un'equazione che non funziona, e chiaramente uno dei nervi centrali di questo problema, perché finché non ci si libera di questo non si potrà fare un passo in avanti. Il governo americano del resto non vuole intervenire, non vuole sostituirsi alla GM, e dunque ha detto: bene, allora la GM fallirà se non trovate appunto questa soluzione. Fallirà quando? Ai primi di maggio, e sarà un fallimento rapido, guidato e manovrato, che nel giro di 2 settimane porterà una soluzione così fatta. Ci sarà una new company, una nuova GM, la GM sana, e ci sarà la GM cattiva, che alla fine non potrà far fronte alle sue spese e dunque sarà insolvente nei confronti dei creditori. Il problema è delicato, il governo americano si rende conto che una chiusura, un'interruzione di produzione della GM troppo a lungo rischia poi di danneggiare il brand e l'auto stessa, per questo vuole fare un'operazione breve, studiato molto nel dettaglio questo progetto, e c'è naturalmente il braccio di ferro degli obbligazionisti, i quali dicono: no, un momento, noi siamo quelli che hanno diritto prima di altri, e quindi siamo i cosiddetti creditori chirografari, prima di altri ad avere diritto di essere rimborsati, dunque rinunciamo alle nostre obbligazioni, ma siamo noi che prendiamo il titolo GM. Braccio di ferro difficile che in qualche modo si estende anche a quello che in questi giorni è negoziato tra Chrysler e Fiat. Parliamo anche di questo, allora, senza commentare oltre la questione General Motors, perché naturalmente sappiamo che Fiat e Chrysler stanno continuando a trattare, però sembra che l'opzione, come dire, tanto per semplificare, di una guida operativa che tiri in ballo direttamente la Fiat, non soltanto come è stato fatto sin qua, per esempio attraverso la figura di Marchionne, sembra quasi che tranquillizzerebbe gli americani, però questo credo che porrebbe dei problemi invece in casa Fiat, un doppio ruolo di Marchionne. Direi non siamo ancora arrivati a quello. L'idea è che la cura Marchionne adottata per la Fiat possa essere in qualche modo rimodellata ed estesa alla Chrysler, ma questo anche da un punto di vista tecnologico, produttivo, e quindi la Fiat infatti porta gran parte della sua tecnologia in questo accordo che si sta cercando di definire con la Chrysler. Marchionne ovviamente gioca un ruolo importante, tra l'altro proprio questa mattina il Washington Post ha pubblicato un articolo di prima pagina, un'intervista di prima pagina proprio con Marchionne, un'intervista molto interessante in cui si spiegano le strategie della Fiat, in cui si ricostruisce quello che Marchionne ha fatto per la Fiat, e il titolo di questa intervista, tra l'altro, è proprio così, con l'auspicio, ecco, sto cercando di riprenderlo perché lo avevo qua davanti, e l'auspicio e il titolo è questo, dice: ci si appoggia sul senso di direzione della Fiat per guidare la Chrysler. Questo è un po' il messaggio che era emerso anche da Barack Obama. Quindi il negoziato procede, ci sono difficoltà di ogni genere, non ultima, come dicevo prima, per la General Motors, quella degli obbligazionisti Chrysler, i quali dicono: ma scusate, perché noi dobbiamo perdere il 100%, certo, oppure incassare solo il 15% del nostro valore nominale, rinunciando a così a quelli che sono i nostri diritti? Allora noi perdiamo il 100% e in cambio ci teniamo i titoli Chrysler e poi ce ne occuperemo noi. Questa tra l'altro è una strategia che è molto in voga in questo momento in America. Una gran quantità di speculatori acquistano titoli obbligazionari scontati al 30-40% nella speranza che poi l'azienda fallisca e loro incassano, diventano proprietari dell'azienda pagandola poi molto poco. Grazie Mario Platero. Minuti, gentili ascoltatori, c'è qualcuno che ci scrive al 349-238-6666, ma perché non parlate di borsa? E allora eccolo, è arrivato il momento delle borse. E come sempre la campanella di Wall Street ci accompagna nell'aggiornamento per quanto riguarda le notizie dai mercati finanziari. Le notizie sono queste: Wall Street ha aperto in ribasso la borsa americana dopo qualche giorno di pausa, sorprendendo invece le borse europee che se la stavano passando più o meno positivamente. C'è stata una flessione degli indici europei che poi hanno ripreso la loro strada per chiudere la giornata indisturbati, verrebbe voglia di dire, da questo ribasso americano, e chiudendo più o meno positivamente. Allora, dicevamo, Wall Street, il Dow Jones meno 0,83%, il Nasdaq cede esattamente un punto in percentuale. Invece l'Europa in progresso: Parigi dello 0,8, dello 0,9, Francoforte dell'1,47%, Londra invece è rimasta e sotto la soglia della parità, adesso meno 0,23%. Per tutta la giornata la più brillante borsa europea è stata Piazza Affari, l'S&P MIB guadagna il 2,34% proprio alla chiusura. Ci sono molti titoli positivi in grande spolvero, soprattutto titoli del settore bancario, addirittura c'è Mondadori che guadagna il 12%, poi Bulgari positiva per tutta la giornata, più 8%, dicevamo i bancari, Montepaschi, Unicredit, Intesa San Paolo, guadagnano tutti più di 5 punti in percentuale. Vediamo subito, salutiamo Flavia Carletti di Radio Cor. Buonasera a tutti. Buonasera Flavia, vediamo subito di capire un po' qualche cosa. Vabbè che c'è stato qualche giorno di pausa e quindi come sempre c'è anche voglia di tornare a scommettere su qualche titolo, a investire. Come si spiega questo più 11,9% di Mondadori? Ma secondo alcuni operatori Mondadori era stata eccessivamente penalizzata nelle ultime sedute dopo che aveva pubblicato i conti trimestrali, e quindi in una giornata comunque positiva per le borse ha beneficiato più di altri titoli, e in più ha sottolineato un analista di una similanese, Mondadori tratta a sconto rispetto ai suoi principali competitor. In particolare si calcola che rispetto alle previsioni del per i conti di tutto il 2009 il prezzo di Mondadori sia di 9,9 volte i multipli contro le 15,5 volte dei suoi diretti competitor, e quindi questo probabilmente ha alimentato gli acquisti di fronte al fatto che secondo tanti è molto poco costosa, e considerando il fatto che rispetto ad altri titoli del settore ha anche una diversificazione del business leggermente più resistente anche in questa fase di crisi, soprattutto grazie, parlavano le librerie, i libri, insomma un settore comunque alla fine bene o male abbastanza difensivo rispetto ad altri nel settore dei media. Tra gli altri positivi, Flavia, io vedo Autogrill, Grill più 4,47, Buzzi Unicem più 4,4, Generali più 3,9%, Ubibanca più 3,85, e possiamo leggere ancora qualche titolo tra quelli più positivi: Banca Popolare di Milano, Unipol, Saipem, Alleanza, Mediobanca, c'è anche Mediaset tra gli editoriali, guadagna 2,5% in percentuale. Anche Luxottica oggi ha vissuto una giornata positiva, qua però c'è una ragione precisa. Sì, qui oggi è arrivato un buy di Deutsche Bank su Luxottica, che ha fatto un'analisi sul titolo dicendo che nonostante il 2009 sarà un anno difficile per tutta l'economia mondiale, per il settore del lusso anche, e probabilmente la fine dell'anno non sarà molto positiva, di fronte a comunque qualche segnale di ripresa, al fatto che comunque per il 2010 tutti si aspettano una ripresa, secondo Deutsche Bank Luxottica sarà una di quelle società che potrà uscire meglio dalla crisi, in particolare grazie alla sua grande quota di mercato, e proprio anche e loro parlano anche, cioè, considerano in maniera positiva la gestione della società, il suo management e anche il suo modello di business, quindi sono cauti sul 2009, però di fronte al fatto che si aspettano comunque una ripresa, dicono che Luxottica va bene, hanno anche fissato un target di prezzo a 16 euro, oggi probabilmente sono scattati gli acquisti, anche che quando esce comunque un report positivo molto alto, gli stessi clienti della banca sono invogliati agli acquisti. Abbiamo parlato poco fa delle vicende americane che riguardano Fiat, il titolo ha fatto un po' di su e giù, adesso il titolo è positivo in chiusura dello 0,5%, non so se vuoi aggiungere qualcosa anche su questo oppure se vogliamo passare già ai titoli negativi. Fiat oggi appunto non ci sono grandi novità, il mercato è in grande attesa per i dettagli dell'accordo con Chrysler, quindi il titolo è stato molto volatile, alla fine è riuscito comunque a chiudere in positivo, però non ci sono motivi particolari per il suo andamento, comunque il mercato aspetta, probabilmente nell'attesa alla fine c'è chi ha venduto e chi ha comprato, alla fine considerando che Milano è stata la borsa che ha guadagnato di più, Fiat si è anche un po' staccata magari dall'andamento di altri titoli del settore che oggi sembravano penalizzati dalle previsioni di apertura magari su GM, che invece poi è andata positivamente in avvio di Wall Street, e quindi alla fine è riuscita comunque a guadagnare uno 0,5. S&P MIB, vado dal basso verso l'alto, Pirelli meno 2,55, Finmeccanica meno 1,6, Ansaldo meno 1,3, Atlantia meno 1,3, Snam Rete Gas meno 1,2, A2A meno 1,1%. C'è qualcosa da dire sul caso di A2A? Beh, A2A oggi, secondo gli operatori, è stata penalizzata dalla notizia che i comuni che la controllano, Brescia e Milano, hanno deciso a sorpresa di revocare i componenti del consiglio di sorveglianza. Il titolo è stato molto volatile per tutta la giornata, però poi alla fine hanno prevalso le vendite, e anche se comunque la decisione non dovrebbe in alcun modo avere effetti sul consiglio di gestione, di cui dovrebbero essere confermati tutti i membri. C'è da dire che comunque il settore energia oggi non è stato particolarmente brillante, quindi questo unito alla notizia ha fatto sì che il titolo sia stato uno dei più deboli oggi. Per quanto riguarda invece Telecom, anche questo è stato un titolo altalenante, poi ha chiuso, coincidenza vuole, proprio come Fiat, altro titolo altalenante, più 0,5%. Sì, Telecom aveva aperto la seduta in calo perché secondo gli operatori sul titolo persistono una serie di preoccupazioni legate soprattutto all'Argentina. C'è stata questa decisione nei giorni scorsi dell'antitrust del paese sudamericano di azzerare i diritti di voto dei componenti di Telecom Italia nel CDA di Telecom Argentina, perché Telecom attraverso Telco ha la presenza di Telefonica, che a sua volta è già presente sul mercato argentino, quindi in qualche modo ravvisavano dei problemi di antitrust per la compagnia spagnola, e quindi ne ha fatto le spese quella italiana. Però comunque è arrivata la notizia del ricorso dei vertici di Telecom Italia, e quindi alla fine probabilmente queste due notizie si sono un po' le preoccupazioni sono un po' controbilanciate, e è stato appunto tutto il giorno abbastanza altalenante. Oggi più che altro su Telecom c'è da segnalare invece l'andamento di Telecom Italia Risparmio, che sono andate per tutta la giornata meglio delle azioni delle ordinarie, e questo ma quello che ha, diciamo, destato più attenzione è stato gli intensi volumi scambiati, perché per un titolo che in media ha 37 milioni di pezzi scambiati al giorno, oggi sono stati più di 147 milioni. Dice, i trader hanno riferito che c'è stato un fortissimo interesse in apertura perché si aspetta lo stacco della cedola, che è in calendario il prossimo 20 aprile con pagamento il 23, e quindi questo ha generato un po' di movimenti, anche se poi c'è da ricordare che se qualcuno magari in passato poteva speculare su magari una conversione su delle risparmi in ordinarie, nell'ultima assemblea Galateri di Genola ha smentito categoricamente questa ipotesi. E va bene, grazie, buona serata Flavia Carletti, collega di Radio Coro Il Sole 24 Ore, per questi approfondimenti. Ricordo Dow Jones meno 0,77%, Nasdaq meno 0,93%, in questo momento borse europee chiuse, Piazza Affari più 2,34%. L'ha annunciato il ministro dell'economia Giulio Tremonti con una nota sabato scorso. Il governo intende aggiungere alle possibili destinazioni del 5 per 1000 delle dichiarazioni IRPEF, che andiamo facendo proprio in queste settimane, anche gli interventi pubblici a favore delle aree delle popolazioni colpite dal terremoto. Sappiamo che attualmente l'assegnazione del 5 per 1000 riguarda le associazioni sportive di volontariato, gli enti locali, che a questo punto temono di perdere queste risorse. Parliamo di circa 400 milioni di euro. Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, eccomi. E questa è la questione, è per questo che c'è stata una levata di scudi da parte delle associazioni di volontariato, dicono non è questo il modo per intervenire, perché? Sì, e non solo delle associazioni del volontariato, ho visto anche delle dichiarazioni di esponenti dell'opposizione, i quali sostengono che, diciamo, le associazioni del volontariato sono già operative nelle zone terremotate e che quindi la possibile destinazione di una parte del 5 per 1000 anche ad altre associazioni o altri soggetti potrebbe costituire, diciamo, un vulnus per l'attività di questi soggetti che già svolgono attività sul territorio. E dunque sì, il problema sostanzialmente è questo, cioè le associazioni del volontariato, ma anche il forum del terzo settore ed altri lamentano il rischio che questa, diciamo, torta, che complessivamente vale, come tu dicevi, attorno ai 380-400 milioni, possa essere quasi interamente dirottata all'emergenza, anzi alla ricostruzione delle zone terremotate. Già, perché sì, perché facciamo anche qualche altra cifra per allargare il quadro. La spesa per la ricostruzione dell'Abruzzo è stimata per il 2009 in 800-900 milioni di euro dal governo, 100 milioni sono già stati stanziati, altri 150 dovrebbero essere disponibili attraverso il fondo calamità. Altre risorse arriveranno dall'Unione Europea, che le ha già annunciate, e appunto si stanno studiando altre forme di finanziamento. Ecco come sbuca fuori la questione del 5 per 1000, che come potete capire darebbe già di per sé un apporto notevolissimo, anche se poi la cifra complessiva negli anni a venire per la ricostruzione dell'Abruzzo è stata stimata in oltre 3 miliardi di euro. C'è però anche la questione della tempistica, Dino, qualcuno ha sollevato questa questione, cioè il 5 per 1000 potrebbe non essere operativo, utile subito. Questo è l'altro problema, perché dai calcoli fatti dall'Agenzia delle Entrate si ha già ora la quasi certezza che i fondi che dovessero affluire per questa via non sarebbero disponibili se non prima di un paio d'anni. Questo perché se noi facciamo riferimento, diciamo, alla distribuzione dei fondi del 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi degli ultimi anni, vediamo che c'è stato un notevole ritardo, tanto che sono stati distribuiti finora, diciamo, gli stanziamenti relativi alle dichiarazioni del 2005, quelli del 2006-2007 sono ancora fermi. Dunque obiettivamente c'è un problema, diciamo, di tempistica, anche se occorre dire che diciamo, la ricostruzione dell'Abruzzo richiede certo tempi lunghi, e quindi anche se dovessero arrivare tra qualche tempo sarebbero benvenuti questi fondi. Il problema fondamentale è che in realtà l'ammontare complessivo delle risorse che servono è molto più ampio, tanto che il governo sta addirittura ipotizzando, pensando di valutare in sede europea se è possibile introdurre una sorta di scudo fiscale per i capitali che dovessero rientrare, esportati illegalmente e poi dovessero rientrare, una sorta, diciamo, di replica del provvedimento che venne già introdotto dal governo Berlusconi nel 2003 e che però avrebbe delle modalità completamente diverse. Quindi questo sarebbe, diciamo, questo del 5 per 1000 sarebbe uno stanziamento aggiuntivo, parte minima, voglio dire, di tutto quello che serve. Però tanto basta per scatenare già le polemiche. E va bene, grazie Dino Pesole, ci fermiamo qua. Naturalmente cercheremo di parlarne ancora di questo argomento. Ricordiamo solo, per quanto riguarda sempre la questione terremoto, oggi l'ABI ha annunciato la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino alla fine dell'anno e anche l'azzeramento delle commissioni bancarie nelle operazioni di bonifico e di prelievo dagli sportelli automatici. E poi la messa a disposizione di fondi per la ricostruzione in favore di tutta l'area colpita dal terremoto. Adesso invece apriamo un altro capitolo, parliamo delle novità in vista per la sanità italiana. Già, perché il governo sta mettendo a punto un piano per garantire risparmi e recuperare efficienza nel servizio sanitario nazionale. Il progetto, che dovrà passare da un'intesa con le regioni, prevede tra l'altro la riduzione, questo è il punto caldo, di 27.000 posti letto entro i prossimi 5 anni. Tutto questo viene misurato attraverso il tasso, cosiddetto tasso di ospedalizzazione. Si vuole portarlo da 160 posti letto ogni 1000 abitanti al valore di 130, e naturalmente si stanno scatenando conti e reazioni e quant'altro. Sullo sfondo c'è il problema del deficit del Servizio Sanitario Nazionale accumulato dalle diverse regioni, e allora ne vogliamo parlare con Paolo Del Bufalo, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Oggi c'è una pagina con la quale il Sole 24 Ore anticipa un po' i tempi di questi provvedimenti. E, i tagli, innanzitutto, che cosa prevede questo piano che è allo studio del governo, e il punto di partenza, immaginiamo, è la questione del deficit. Il deficit è ovviamente l'asse portante di tutta quanta la manovra che sta facendo governo e regioni insieme per il prossimo patto sulla salute, che sarebbe quell'accordo che deve stabilire le linee di programmazione e di efficienza della sanità per 3 anni. Questo che naturalmente è subordinato alla spesa sanitaria, le regioni subordinano ovviamente al finanziamento, il governo lo subordina al deficit, nel senso azzeriamo i deficit, le regioni dicono sì, però ci dovete dare le risorse per poter finanziare l'assistenza sanitaria. Il piano di ristrutturazione ospedaliera era un piano già stabilito, già indicato, diciamo così, nell'indicazione di massima della manovra d'estate, la legge 133 del 2008. E le regioni e il governo dovevano cominciare a stabilire dei parametri, a mettere dei paletti per vedere come fare per poter dare maggiore efficienza agli ospedali, anche appunto, come dicevi, risparmiando chiaramente. Sappiamo che la questione della sanità si intreccia, come dicevi tu, fortemente con i livelli di spesa delle regioni e quindi anche con le future previsioni che riguardano il federalismo fiscale e quant'altro. Però guardando un po' la tabella che oggi pubblica proprio il Sole 24 Ore, si rimane un po' colpiti, almeno per chi non è dentro a questa materia, dal fatto che si prevedono riduzioni di posti ospedalieri in regioni che solitamente sono considerate molto efficienti sul piano della sanità, come per esempio la Lombardia, che passerebbe da 44.088 posti a 38.182, oppure l'Emilia Romagna, anche qua ci sarebbe un calo di quasi 4.000 posti. Invece ci sono regioni, Paolo, dove i posti sembrano essere stabili o addirittura salire, e il deficit invece è alto, come la Sicilia per esempio. Come certo, mai? Questo è un effetto del tasso di ospedalizzazione che dicevi prima tu. Allora, per dirla facilmente la cosa, non è necessariamente per le regioni quelle virtuose, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, sono quelle più tradizionalmente virtuose, hanno già con un numero di posti letto per 1000 abitanti in regola rispetto ai parametri attuali. Ovviamente la razionalizzazione, e sono comunque posti letto efficienti, nel certo, senso che vengono utilizzati. E allora perché diminuirli? due altre, diminuirli perché l'efficientamento del Servizio Sanitario Nazionale chiede anche delle nuove regole, per esempio invece di essere ricoverati in un letto di ospedale per determinati tipi di interventi si dovrebbe utilizzare il day hospital, la day surgery, addirittura, cioè sarebbe l'assistenza in un giorno praticamente, si entra la mattina, si esce la sera, oppure addirittura le prestazioni ambulatoriali, quelle, ormai la cataratta, per dire un intervento molto semplice, non si fa più il ricovero come si faceva qualche anno fa, ma non si fa più nemmeno in day hospital, si va la mattina, all'ora di pranzo si esce con un intervento fatto. Questo benissimo, questo... per quanto riguarda per esempio appunto regioni come la Toscana che sono già in pari sul tasso di ospedalizzazione, che dire invece di regioni come la Sicilia dove il deficit è di oltre 3 miliardi o la Campania di quasi 5 miliardi e i posti addirittura aumentano secondo questo piano? Sì, loro hanno fatto, aumentano, poi lì evidentemente non è che gli faranno fare posti in più, questo è un parametro evidentemente, poi contiene anche altri valori che vanno rispettati. Uno è proprio quello del tasso di ospedalizzazione, cioè praticamente quanti ricoveri si fanno in quei posti letto e che tipo di ricoveri si fanno in quei posti letto, perché la Campania, per esempio, per dirne una che da poco ha fatto un piano di ristrutturazione ospedaliera che già fa delle previsioni di ottimizzazione, quindi non stiamo aggredendo nessuno impreparato, diciamo così. La Campania per esempio ha una miriade di piccoli ospedali sparsi sul territorio, piccoli ospedali che, come abbiamo anche scritto appunto sul quotidiano, non hanno un tipo di ospedalizzazione efficiente, a volte addirittura rimane pericoloso questo tipo di ricovero. Che succede? Succede che andranno razionalizzati, succede che andranno ottimizzati questi ricoveri, lì si abbatterà il tasso di ospedalizzazione, quel famoso 160 ricoveri per 1000 abitanti che deve passare a 130. Infatti, guardando questi tassi in queste regioni che hanno comunque un numero di posti letto già in regola, si vede che in realtà ci sono una marea di ricoveri in più oltre il tasso già previsto, che non ci sono in Toscana, in Umbria, nelle altre regioni. Quindi insomma razionalizzazione è evidentemente la parola chiave del patto per la salute 2010-2012 che il governo sta mettendo a punto con le regioni. Ci dobbiamo fermare necessariamente qua, grazie a Paolo Del Bufalo, collega del Sole 24 Ore, ma grazie anche a Mauro Del Corno, Barbara Bianchi e a Filippo Reggi in regia. Focus Economia termina qua. Appuntamento adesso è con le notizie del giornale radio.